tour the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Cavanagh. This is Tam Tam Europe. In questo pillole che vanno in onda quattro volte al giorno vi raccontiamo tutti i fatti più interessanti del mondo del rock e non solo. E purtroppo il rock non piace a tutti. In questo si vede in America soprattutto che ci sono tanti genitori che protestano contro il rock e soprattutto contro i testi. Qualche anno fa è passata una legge che stabilisce che ogni disco che contiene bestemmie deve portare un Parental Advisory Explicit Content. L'ultimo gruppo a provocare l'ira dei genitori americani è stato quello degli Offspring. Sono stati tempestati da lettere minatorie e anche semplici insulti da mamma e papà convinti che siano di cattivi esempio per i figli. Dexter Holland, la cantante, risponde: dicono che la nostra musica è violenta, eccetera. Riceviamo anche buste con i nostri CD fatti a pezzi, a martellate. Come se spaccare un disco non fosse un atto violento. E c'ha proprio ragione. Su Tam Tam Europe, su Radio Tour The Moving Station, vi ricordiamo di segnalarci gruppi e brani da ascoltare all'indirizzo email fergal@radiotour.it. Vi salutiamo con The Offspring e perché non pigli un lavoro? Why don't you get a job? Alla prossima. Tam Tam Europe. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay. Spring su Radio Tour The Moving Station, sono le 23:17. Questo testo che mi sta un po' antipatico, in ogni caso è un bel progetto. Grazie a Fergal che ci ha regalato un'altra pillola di rock e la nostra redazione di Londra. Ce ne sono quattro ogni giorno, le prossime le troverete domani pomeriggio e poi chiaramente domani sera. SPOT Spot Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Cavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Pillole del rock messo in onda quattro volte al giorno on Radio Tour, the moving station. Ed è proprio del rock che parliamo adesso. Sono molti i gruppi che hanno iniziato a suonare cover dai brani che li ispirava. Fino ad oggi Robbie Williams fa quasi metà dei suoi concerti di cover versions e George Michael sta vendendo molto con una collezione di cover. Anche questo trend è arrivato in Italia. I Verdena hanno registrato nel loro mini album Viva un pezzo del vecchio gruppo di Eric Clapton degli anni 60. Parlo dei grandi Cream e di Sunshine of Your Love. Remember, if you want to send me an email, my address is fergal@radiotour.it. From Tam Tam Europe, our news desk in London, and from Fergal Cavanagh, vi lascio con the title track of Verdena's mini album. Questo è Viva. Alla prossima. Tam Tam Europe. Forse no. di rock e una stringata di chitarra distorta fa bene anche a distorta fa bene anche a quest'ora per darci la grinta per poter poi passare una tranquilla serata o perlomeno una serata all'insegna magari di un grande divertimento, di un grande sforzo, questo sta a voi deciderlo. Allora raga, le 17:16 minuti, Verdena su Radio Tour The Movie Station, ringraziamo Fergal, la nostra redazione di Londra, facciamo una piccola pausa e tra poco ci collegheremo con i nostri agenti per Baci in Tour. S-P-O-T. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Queste pillole che vanno in onda quattro volte al giorno sono preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. Parleremo di musica, di concerti e di tutte le notizie più interessanti. Sono già in discussione gli artisti che suoneranno al festival quest'estate. David Bowie tornerà a Glastonbury, il festival più famoso in tutta Europa. È dagli anni 60 che Bowie non ci suona e sarà davvero un grande spettacolo. Mentre già confermati per il festival di Reading in Inghilterra in agosto sono The Fall, Arab Strap, The Outdoors e i Blink 182. Su Tam Tam Europe vi facciamo ascoltare i Blink 182 che dicono che hanno preso il loro nome dal numero di volte che Al Pacino bestemmia nel film Scarface. Devo affittare il video e contare. Allora per adesso è tutto. Dalla nostra redazione di Londra e da Fergal Kavanagh vi lascio con All The Small Things, tutte le cose piccole, da Blink 182. Alla prossima. Tam Tam Europe. Always, I know you'll be at my 182 su Radio Tour The Moving Station alle 20.318. Tantam Europe tornerà domani, altre 4 pillole tutti i giorni. SPOT Spot Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Welcome to Tam Tam Europe, la vostra pillola di rock e oltre, in onda 4 volte al giorno on Radio Tour, the moving station. Ed eccoci al 2000, il nuovo millennio, e il mondo rock ha festeggiato alla grande con tanti concerti a Londra e in tutta Europa. 56.000 persone sono andate al Millennium Stadium di Cardiff in Galles per vedere un concerto con i Manic Street Preachers, il gruppo gallese che sta insieme da più di 10 anni. 5 anni fa è scomparso il chitarrista Richie Edwards, e in questo concerto hanno dedicato un brano a lui dicendo che era the best and coolest companion of the decade. From their last album If You Tolerate This Then Your Children Will Be Next, we've got the Manic Street Preachers and Tsunami. Dal Tam Tam Europe on Radio Tour The Moving Station vi saluti e vi invito a visitare il nostro website www.radiotour.it. Da Fergal Kavanagh è tutto, alla prossima. Tam Tam Europe. For you, my dear sister, holding on to me forever. Disco dancing with the rapists, your only crime is silence. Can't work at this anymore. Can't prove I want to stay at home. Tied up to all these crutches, never far from your hand. Noi ringraziamo Fergal, la nostra redazione di Londra. Facciamo una piccola pausa e tra poco su Radio Tour The Movie Station ci sarà l'appuntamento con Baci in Tour. SPOT Spot. Radio Tour The Movie Station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh bringing you the best news in rock and non solo sul Tam Tam Europe. 4 pillole al giorno sono preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. Allora siamo in Italia e parliamo un attimo di Blue Vertigo. Il loro ultimo album si chiama Zero, questo perché è il primo album della trilogia chimica, iniziavo con la A di acidi e basi, il secondo si chiamava con la lettera centrale M, metallo non metallo, e quindi questo doveva iniziare con la Z, lettera finale dell'alfabeto. Poi al centro di metallo non metallo notate le O esattamente nel centro. Questo vi dà un mal di testa? Allora proponiamo i Blue Vertigo con Il mio mal di testa su Radio Tour The Moving Station. That's it for the moment from Tam Tam Europe. If you want to write to me or suggest any songs for the show, the address is fergal@radiotour.it. Da Londra e da Fergal Kavanagh, Il mio mal di testa da Blue Vertigo. Ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. sole più servo a casa serve solo per il mio mal di testa. Tornare da Milano all'ora di punta serve solo per il mio mal di testa. Subisco a scuola, servono solo per il mio mal di testa. Mi piace la bravura, ma a volte il jazz serve solo per il mio mal di testa. Non odio il calcio, ma chi ne abusa serve solo per il mio mal di testa. E spesso di sera, se non digerisco, accuso leggi e i principi di un mal di testa. Se lo ti passa il mal di testa, dico qualcosa. Il Blu Vertigo, dopo aver ascoltato Fergal, che ringraziamo insieme alla nostra redazione di Londra, facciamo una piccola pausa, tra poco bacio in tour. S-P-O-T Spot. Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. This is Tam Tam Europe, your daily dose of rock, broadcast four times a day, keeping you up to date with what's going on in the world of rock e non solo. Prendere parte ad un soundtrack è sempre un ottimo modo per diventare famosi in tutto il mondo, soprattutto se il film è un grande successo. Ricordiamo Pulp Fiction e la soundtrack Quanto era bella. Adesso si inizia a fare lo stesso discorso con la televisione. Magari conoscete i Rembrandts, che sono diventati famosi per la loro musica nel telefilm Friends. Adesso vi proponiamo un gruppo che diventerà famoso attraverso un telefilm americano che sta avendo molto successo qua in Italia. Parlo di Dawson's Creek. E il gruppo sono i Shooter. Questo è tutto per ora. Se mi volete mandare un'email, segnate questo indirizzo: Fergal@radiotour.it. Do Tam Tam Europe, nostra redazione di Londra, e do Fergal Kavanagh, vi lascio con i Shooter e Life's a Bitch. Alla prossima. Tam Tam Europe. Everybody's telling all, bearing their souls, just to go on the Ricky Lake show. Why? Last night I turned the TV on, you were booed off stage, singing your famous love songs. Why? And tell me who makes the rules? perfect 10. Why? And my boyfriend left just the other day. He's all messed up. Is he straight or is he gay? Why? So tell me who. Fergal, facciamo una piccola pausa, tra poco ci sarà l'ultima consegna del bacio in tour. S-P-O-T Spot Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh bringing you the best news in rock and non solo su Tam Tam Europe. Quattro pillole al giorno sono preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. And we read that Blue Vertigo played at a fan convention per David Bowie in Vicenza non tanto tempo fa. Loro sono molto fan di David Bowie e hanno registrato sull'ultimo album Zero un cover di Always Crashing in the Same Car, un brano di Bowie dal 1977. C'è un strano history behind that song. La prima volta che Bowie l'ha suonata, dal vivo, intitolato in italiano e tamponendo sempre la stessa macchina, era la notte in cui Lady Diana è morta a Parigi. È soltanto coincidenza o no? Chi può saperlo? Ma noi a Tam Tam Europe vi facciamo sentire i Blue Vertigo, che speriamo non portano sfiga a nessuno. Se ci volete scrivere o proporre brani e gruppi da ascoltare, l'indirizzo è fergal@radiotour.it. Da Londra e Fergal Kavanagh su Radio Tour The Moving Station, this is Blue Vertigo with Altre Forme di Vita. Ciao, alla prossima! Tam Tam Europe. quarto singolo del Blue Vertigo che ci ha proposto Fergal. Ringraziamo lui, così come la nostra redazione di Londra che ci ha proposto ancora Tam Tam Europe. Facciamo una piccolissima pausa, tra poco la consegna del bacio in tour. S-P-O-T. Spot. Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh e voi state ascoltando Tam Tam Europe, pillole di rock e oltre che vanno in onda quattro volte al giorno. Allora, che fine hanno fatto i Depeche Mode? Qualche mese fa abbiamo sentito dei critici per il fatto che il loro brano Just Can't Get Enough è stato usato per una pubblicità per vestiti di pelle. Il fatto è che, essendo scritto da Vince Clarke, che faceva parte del gruppo, mentre adesso è la metà degli Erasure, ma non c'era bisogno di chiedere il permesso ai Depeche Mode. E la nostra redazione di Londra ci segnala che il gruppo si è riunito nel suo studio proprio in questi giorni per discutere la direzione del nuovo album sul quale stanno lavorando. Allora aspettiamo la loro nuova musica prossimamente. Se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci al 081 790 1411 o inviate un messaggio al 0348 24 38 888. Da Tam Tam Europe e Fergal Kavanagh vi lascio con i Depeche Mode and Only When I Lose Myself, soltanto quando mi perdo. Ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. It's only when I lose myself in someone else that I find myself. I find myself. It's only when I lose myself in someone else that I find myself. I find myself. I find myself. Only When I Lose Myself. Grazie ancora a Fergal per un'altra pillola di Tantam Europe. Sono le 22:19. Questa è Radio Tour The Moving Station. Ci prendiamo una piccolissima pausa. Ci sentiamo tra poco. SPOT. Spot. Radio Tour The Moving Station. Present Tantam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello there, this is Fergal Cavanaugh, Tantam Europe on Radio Tour The Moving Station, bringing you the best news and altre cose dalla nostra redazione di Londra. E ci è arrivato le notizie che Courtney Love Dally Hall sta considerando di interpretare una lesbica nella sua prossima film, tratto da una commedia che racconta le storie di una donna che lascia suo marito per la sua migliore amica di infanzia. Il film si intitolerà Julie Johnson, con Courtney Love che farebbe la parte dell'amica. E prossimamente vedremo Courtney sugli schermi italiani quando uscirà Man on the Moon, il film con la colonna sonora da Lee Remma. Con tutta questa attività nel mondo del cinema, quando è che Courtney ha il tempo di registrare con Lee Hall? Infatti al momento sono bloccati, perché da quando la bassista è andata dagli Smashing Pumpkins, Lee Hall sono rimasti scoperti. Allora se sapete suonare il basso, perché non fate un telefonato a Courtney Love? That's all for now. If you want to send me an email, my address is fergal@radiotour.it. From Tamtam Europe with Fergal Kavanaugh, vi lascio con Lee Hall e Malibu. Alla prossima. Tamtam Europe. Che anno fa è uscito, con un successo strepitoso, sicuramente a me fa comunque una cifra piacere ascoltare i loro pezzi, quindi sicuramente mi ha fatto piacere riascoltarle, grazie a Fergal e alla nostra redazione di Londra. Noi facciamo una piccolissima pausa e tra poco ci sarà la consegna del bacio in tour. SPOT Spot. Radio Tour The Moving Station. Present Tamtam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to TamTam Europe, pillole del rock messo in onda quattro volte al giorno on Radio Tour The Moving Station. E le rockstar che facevano prima di diventare famosi? Magari il loro lavoro non gli piaceva tanto, mentre fare le rockstar li fa girare al mondo, moving from place to place, vedendo posti nuovi. Charlene Spiteri era una parrucchiera prima di diventare cantante per i Texas. Era infatti così brava che fu mandato in America, nella Francia e anche qua in Italia per fare corsi di formazione ai nuovi parrucchieri. Ma chiaramente quando hanno avuto il loro primo hit nell'89, ha deciso che fare la musica fu un'idea molto più bella. Da allora i Texas hanno avuto dei problemi di vendita, ma 2 anni fa sono riesplosi sulle scene con la bellissima White on Blonde. Da allora hanno avuto successo dopo successo e su TamTam Europe vi proponiamo When We Are Together. Vi ricordo il nostro indirizzo email per segnalarci brani o gruppi da ascoltare in TamTam Europe, fergal@radiotour.it. Da TamTam Europe, nostra redazione di Londra, e da Fergal Kavanagh, i Texas con When We Are Together, quando siamo insieme. Alla prossima. TamTam Europe. Abbiamo fatto un giro anche lì, grazie a TamTam Europe. Dalla nostra redazione di Londra e da Fergal, anche per oggi è tutto. Ci sono 3 pillole al giorno di rock e di informazioni per voi. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Un'esclusiva di Radio Tour The Moving Station. Un'esclusiva con la poggiatura lì. Ci risentiamo tra breve. SPOT. Spot.